Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se avete, come spero, ascoltato Giulio Crivelli prima, sapete che da lunedì torna e torna qui anche la Tentino 2 il nostro carissimo Alessandro, e ringraziamo ancora, io ringrazio ma anticipo i ringraziamenti da parte sua per tutti coloro che gli hanno voluto rivolgere l'affetto per il dolore e lutto che lo ha colpito. Allora, in questo 9 settembre ricordiamo qualche santarello. Come tradizione oggi è San Sergio, quindi auguro che si chiama Sergio. Altri nomi un po' meno diffusi come Gorgonio, Tiburzio, Valentiniano, Giacinto, qualche Giacinto c'è. In questo giorno, 9 settembre nel 1976, moriva Mao Zedong. E nel 1998, temo che questo sia rimasto più fitto in testa agli milioni di italiani, moriva Lucio Battisti, che insomma, protagonista, che evoca tanti ricordi ai milioni di italiani, al di là della musica, della sua collaborazione con Mogol. Tra i compleanni, Mario Marenco, che per me è un idolo, grande architetto, ma grandissimo umorista, che insieme ad Arbore, quando eravamo giovani, ci ha fatto piegare in due alla radio per i suoi personaggi. E auguri anche di buon compleanno a Roberto Donadoni, ex giocatore di calcio e allenatore. Allora, di cosa parliamo oggi? Ve lo dico con grande sincerità, sperando che telefoniate almeno numerosi quanto avete telefonato in questi giorni, perché nei giorni alle nostre spalle noi abbiamo obbligatoriamente dovuto mettere la vicenda di Roma e dei 5 Stelle, della crisi della sindacatura giunta, della sua sindacatura e della sua giunta, visto che perde pezzi e anche ieri ha perso l'assessore. Non si riesce a capire se almeno se l'abbia formalmente nominato prima di perderlo oppure no, De Dominicis al bilancio, e quindi abbiamo dovuto fare gran parte della trasmissione su quello. Oggi io spero di interpretare la vostra opinione, ho deciso di non fare così, nel senso che continuate a telefonarci se ritenete, se volete, sugli sviluppi anche quotidiani della vicenda 5 Stelle di ieri, cioè diteci se secondo voi è una crisi radicale, non si riprenderanno a livello nazionale, ne pagheranno il prezzo. Adesso richiamo qualche titolo di giornale per capirci su come stanno le cose, se non avete sentito la rassegna di Giulia Crivelli. Continuate quindi a dirci la vostra anche su questo, ma invece io ho deciso di dedicare con tre ospiti diversi la prima parte della trasmissione ha una vicenda di proporzioni gravissime e che ai miei occhi è incomprensibile. Cioè, io non riesco a capire come in questo paese, veramente mi sfugge, i media, il sistema di informazione, il dibattito politico, le istituzioni, tutti, mentre da una parte hanno parlato per anni di Gomorra, di Saviano, prima del successo del libro, poi degli adattamenti televisivi, l'hanno grandissimo successo, l'hanno seguito a milioni, e in questi giorni al Festival di Venezia i giornali comunque seguono con grande attenzione il docufilm di Santoro, Robin Hood. Cioè, mentre tutti si sono appassionati alle forme espressive letterarie, cinematografiche e televisive dedicate alla Camorra, poi invece a Napoli e nell'intranapoletano è in corso ogni giorno una manifestazione sempre più macroevidente di dominio territoriale nei quartieri centrali della città, fuori da città, di un numero sempre più elevato di gang violentissime che ogni notte, ogni sera a Napoli producono le cosiddette stese, cioè si, per esprimere il dominio della città, si spara a casaccio e chi ci va di mezzo ci va di mezzo, sempre più caratterizzate da essere gang e bande giovanili, di ragazzini giovanissimi, tanto giovani che qualche giorno fa, questo ha guadagnato qualche trafiletto su qualche giornale, addirittura si è parlato, si è letto, ed è stato così, ed è davvero così, di un ragazzino di 8 anni coinvolto nell'aggressione a un altro ragazzo, ma per capirci a che età comincia l'affiliazione, eppure di questo sembra fregare niente a nessuno. Com'è possibile? Ce lo spiegate, cari amici napoletani? Per favore, potete telefonarci e dire come vivete questa sensazione? Vi siete abituati anche voi? L'Italia si è evidentemente abituata, c'è altro da fare, c'è altro a cui pensare. Cioè, che tutte le notti, per esempio, ieri notte c'è stato un attacco alla Molotov a un commissariato. La notte prima, appunto, una stesa, cioè una sparatoria nei tribunali. Guardate, la cosa è ogni giorno. Leggere la cronaca del quotidiano che se ne deve occupare per forza, cioè il Mattino di Napoli, è una cosa che lascia senza parole. Poi tu guardi tutto il resto dell'informazione italiana e non trovi niente. Su questo Robin Hood, il documentario, il film documentario di Santoro, che appunto descrive la violenza delle bande giovanili, dei baby boss di Scampia, del centro storico di Napoli, va sui giornali, come devo dire, qualche cosa che è a cavallo, non del fenomeno reale che si manifesta nella vita di Napoli, ma che va a cavallo con lo spettacolo, perché in questi giorni è capitato appunto che uno dei minorenni, un tredicenne che ha avuto anche una parte in questo docufilm, è stato il protagonista di una rivolta nell'istituto di correzione minorile di Airola perché mancavano le sigarette e così via. E allora finisce sui giornali. Ma perché? Ci finisce sui giornali perché aveva una parte nel docufilm televisivo. Non perché si scopre nelle inchieste del Mattino, in realtà poi il 70%, quasi l'80% di coloro che stanno negli istituti correttivi penitenziari italiani sono giovani del mezzogiorno, e la cosa incredibile che abbiamo scoperto in questi giorni, per chi se ne è occupato, cioè pochissimi dei miei colleghi, abbiamo scoperto che comunque negli istituti penitenziari di correzione per i minorenni ci sono anche i detenuti maggiorenni, tanto per farli affiliare meglio anche i minorenni, perché naturalmente l'amministrazione penitenziaria ci dice noi non sappiamo dove metterli altrimenti, quindi avete scoperto l'acqua calda. Ecco, però tra pochissimo, fino alle 9, noi ci occupiamo di questo con i nostri ospiti, e io vi chiedo di intervenire per dire la vostra, anche per dire non me ne frega niente, continuano ad ammazzarsi tra di loro a Napoli, minorenni e così via, perché qualcosa ci deve essere di profondo per cui noi non ce ne occupiamo. Vi faccio anche una domanda: siete in grado di dirmi quanti ne hanno ammazzati a Napoli in sparatorie della malavita dall'inizio dell'anno? Perché ai tempi della vecchia camorra e della divisione in bande tra nuova camorra organizzata e vecchia camorra, i generali aggiornavano il bilancio tutte le volte che c'era una nuova vittima. Adesso questa cosa non capita più. Quindi io vi prego, telefonate all'800 24 00 24, se volete ancora sui 5 Stelle. Adesso leggerò 4 titoli su questo. Però la domanda è: perché di quello che capita a Napoli, della malavita giovanile brutale che ha il controllo della città, non ce ne frega niente né all'informazione e né quindi al dibattito pubblico italiano, o meglio ce ne importa solo per le riduzioni televisive e cinematografiche? Ecco, questo è l'argomento del giorno. Poi andremo anche a occuparci di altro dopo le 9, perché vedrete che ci sono vicende collegate alla mitica faccenda dei furbetti del cartellino. Vedremo se è applicata per la prima volta la legge Madia o meno, licenziamento in 48 ore, sia delle mitiche centinaia e centinaia di settimane decisive per l'abolizione delle province, come direbbe il mio compare Alino Milan, perché ci sono vicende in corso terribili, per chi naturalmente è colpito direttamente, di dipendenti delle province che tentano di essere riallocati dall'amministrazione pubblica in altre parti dell'amministrazione pubblica, ma vedrete qual è la reazione dei loro colleghi nei servizi pubblici e a cui dovrebbero essere trasferiti. La risposta naturalmente è no, voi non c'entrate niente. Comunque, paradossi della vita pubblica italiana. Io mi limito a ricordare qualche titolo oggi con le diverse letture dell'ennesimo aggiornamento della crisi dei 5 Stelle a Roma, e cioè del fatto che Virginia Raggi ha dovuto scoprire che De Dominicis gli aveva mentito, era indagato anche lui. E questo De Dominicis è, devo dire, fantastico, perché dà di sé una lettura di integerrimo personaggio che addirittura sarebbe a propria volta vittima di un complotto. l'intervista a Repubblica, io vi prego di leggerla, di De Dominici, la trovate a pagina 2. Io sono vergine e sono vittima di un complotto. Dopodiché il De Dominici se stesso copre letteralmente di insulti i 5 Stelle, che pure lo hanno chiamato sindaco, e la Raggi lo ha difeso di fronte alla richiesta di tagliargli la testa, che era venuta dai vertici 5 Stelle e di Grillo. Eppure ciò malgrado De Dominicis, che dimostra quindi di non essere esattamente un genio situazionista, per così dire, di non aver capito che doveva essere forse grato a Virginia Raggi, rilascia un'intervista nella quale dice testualmente: la politica non fa per i 5 Stelle, ma che codice d'onore, è un asilo infantile, hanno perso un'occasione per fare una cosa giusta. Il direttorio, ma se neanche quelli hanno finito gli studi. Ecco, questo è il modo in cui un ex magistrato della Corte dei Conti, che negli atti giudiziari che portano la propria firma sbagliava e confondeva il presidente della commissione con il presidente della BCE, tanto per capirci, questo però naturalmente può essere un errore veniale, però indagato dà accusa ai magistrati che lo indagano, lui che è un magistrato contabile. Che volete che vi dica? Questo tanto per dire il caso del giorno, cioè quello di De Dominicis. Però vi voglio segnalare anche due bei pezzi, secondo me, che riguardano l'ascesa del il DIBA, come viene chiamato oggi, no? Cioè al posto di Di Maio, il nuovo, la stella nascente, per così dire, come possibile candidato nazionale alla guida di un governo da parte dei 5 Stelle. E i due ritratti che mi sono piaciuti hanno toni diversi, però, perché è molto salace, durissimo, come il Messaggero in questi giorni, ovviamente durissimo, è chiaro che il Messaggero, ci siamo capiti anche perché è durissimo, questo conta, ma comunque il pezzo del bravissimo collega che conosco da tanti anni, Mario Aiello, dedicato a Di Battista, e Piccoli Masanielli, Dibba, l'inventore di complotti e congiuntivi, veramente un po' cattivello, questo ritratto, però ha quello di Fabrizio Ronconi su Corriere della Sera, anche altrettanto imperdibile, secondo me, perché è il ritratto del Dibba come una rock star. E devo ammettere, mi è molto piaciuto. Ascesa di Dibba, la rockstar, il grillino di lotta dai toni decisi, che gira in scooter per il no, sa scaldare le piazze tra la passione per il CE e le gaffe in politica estera. Anche qua la mancanza di competenza e la preparazione, per così dire, sono i punti deboli della vicenda. Sulla Stampa, questo ve lo ricordo per chi volesse telefonare, un approfondimento tra i tantissimi ancora dedicati a Roma alla politica, diciamo, divergente, molto discrezionale, seguita dai vertici dei 5 Stelle, a seconda dei sindaci del loro movimento che siano colpiti da avvisi di garanzia. Il caso di Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, indagato per concorso in bancarotta fraudolenta, abuso d'ufficio, falso in bilancio, difeso a spada tratta, mentre altri sindaci, quello di Quarto, i Pizzarotti che abbiamo sentito ieri di Parma, eccetera eccetera, sospesi, travolti, polemiche durissime da parte del direttore dei vertici del Movimento 5 Stelle, perché la regola dovrebbe essere indagato salta. Ma sulla Stampa voglio anche dirvi, da torinese vi voglio segnalare l'intervista di Freccero, perché Carlo Freccero, membro del CDA RAI proposto dai 5 Stelle, ha le idee chiare e dice: tocca l'Appendino, sindaco di Torino, è lei la leader perfetta del Movimento 5 Stelle. C'è anche questa novità lanciata da Freccero per tentare di puntellare un futuro dei 5 Stelle che, alcuni dicono, ha preso danni tali che non potranno davvero avere speranze alle prossime elezioni politiche. Renzi ringalluzzito, si è visto nel tono ieri sera alla Festa Unità di Firenze. Io non lo so, i sondaggi che pubblicano oggi alcuni, per esempio il Messaggero, il sondaggio SVG, attesta un calo di Movimento 5 Stelle in 7 giorni del 4,4%, cioè sarebbero passati dal 29,5% al 25,1%. Vedremo, di sicuro la botta c'è, però dette queste cose, solo per vedere come la pensate, se ci volete telefonare ancora su Roma, iniziamo a occuparci di questa vicenda di Napoli, che ai miei occhi è un interrogativo che riguarda le tecniche di comunicazione, la scelta della gerarchia delle notizie, dei giornali, delle radio, delle televisioni nazionali, perché non riesco a capire com'è che noi non ci occupiamo di quello che avviene tutte le notti e tutti i giorni a Napoli. E Dall'altra parte, però, ci occupiamo delle riduzioni televisive e delle riduzioni romanzesche o di documentazione, insomma, nel caso di Saviano e nel caso nuovo di Santoro con il suo docufilm che sta a Venezia, Robin Hood. Allora, iniziamo a chiedere al vice direttore del Mattino, Federico Monga, perché tutto questo avviene, e naturalmente però la risposta ce la dia dopo un minuto. 24 Mattino, attenti a noi due. Conoscete, no? Molti di voi lo riconoscono senza dubbio, il tema musicale della riduzione televisiva di Gomorra di Saviano, e la mia domanda, non ho una risposta, è come un paese che si appassiona così tanto per Gomorra di Saviano, per la sua riduzione televisiva, e come probabilmente adesso avverrà per il docufilm Robin Hood di Santoro alla Fiera di Venezia e poi alla sua messa in onda, però tiene gli occhi chiusi, sta muto su quello che avviene ogni giorno da mesi e mesi e mesi e mesi, con crescente violenza nelle strade di Napoli, le gang giovanili, sparatori, ammazzamenti, molotov contro la polizia, minori di età sempre più bassa che finiscono con istituti penitenziari dove ci sono anche gli adulti, e così via. E devo dire, per me è incomprensibile, e la domanda che faccio al vice direttore del Mattino, Federico Monga, è: voi come ve lo spiegate? Federico, innanzitutto, quanti sono i morti ammazzati a Napoli dall'inizio dell'anno, ma perché ve ne occupate solo voi? Che cos'è? Come spieghi questa faccenda? Allora, i morti ammazzati da Napoli dall'inizio dell'anno sono stati 22 solo nella città di Napoli. Poi ovviamente Napoli è una grande metropoli e bisogna comprendere anche il circondario, e a quel punto il conto mi viene un po' difficile. Come mai ce ne occupiamo solo noi? Ma io credo che ci sia in generale un problema di rappresentazione nel paese di che cosa avviene nel Mezzogiorno e in particolare in alcune aree. I maggiori quotidiani difficilmente si interessano di quanto avviene a sud, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista sociale. Questo vale secondo me anche di più per quanto riguarda le televisioni, e si parla tanto di nuovi talk show, di nuove forme di comunicazione, e insomma è difficile trovare in alcuni dei maggiori talk show che l'argomento principale sia la camorra piuttosto che la disoccupazione e la crisi sociale del Mezzogiorno. Certo, non si parla di quello che sta avvenendo a Napoli se non per discuterne della rappresentazione e non della sostanza e delle soluzioni, ecco. Però voglio dire, questo fenomeno della trasformazione che è nato da anni e che però noi non analizziamo, per cui queste baby gang di ragazzini che usano armi in maniera sempre più indiscriminata, sparano per le strade per dimostrare di avere le estese, appunto, il controllo del territorio e così via. Nella vostra ricostruzione, adesso poi sentiremo, abbiamo anche due ospiti e ne abbiamo anche uno impegnato in prima fila con la procura, ma nella ricostruzione della trasformazione del controllo territoriale a Napoli e nell'Interland di queste bande giovanili, che tipo di fenomeno, cioè che cosa può portare e sta portando a una cosa di questo genere? Ma dunque, a Napoli sicuramente c'è un problema criminale e militare da affrontare militarmente. Che cosa è successo? Negli ultimi anni, grazie all'intenso lavoro delle forze dell'ordine e della procura, sono state praticamente disarticolate tutti i grandi clan, tutti i grandi boss, i boss più importanti dei clan camorristici, sia nel centro che nella periferia di Napoli. E quindi si è creato un vuoto di potere all'interno delle associazioni criminali. E quindi c'è un rinnovamento, si è creato uno spazio vuoto che ha lasciato liberi i criminali che hanno, diciamo, l'opportunità di scalare i vertici. Ovviamente queste scalate avvengono in una maniera anarchica, violenta, senza quelle regole che bene o male avevano alcuni codici di comportamento che invece erano tipici, insomma, della vecchia. Quindi è la vera ragione per cui si torna a sparare in maniera così indiscriminata per affermare il proprio potere nel controllo, diciamo, della strada del centro. 30 anni fa, ecco, Raffaele Cutolo, e perché non c'è un equilibrio reciprocamente riconosciuto nel controllo territoriale. No, non c'è più questo equilibrio, e quindi la stesa è uno degli strumenti che viene utilizzato per affermare il potere. E la stesa non ha un valore, diciamo, criminale, militare, ma che cos'è? Dà un messaggio. Il messaggio è quello: ci siamo armati, siamo disposti a qualsiasi violenza, non teniamo che chi rappresenta lo Stato negli altri criminali. Arriviamo, spariamo all'impazzata contro negozi, case, e dimostriamo che noi qui possiamo comandare. Ecco perché io dico che mentre per l'Ndrangheta e la Camorra, diciamo, l'aspetto militare, la sconfitta militare da parte dello Stato nei confronti delle associazioni criminali c'è stata, nei confronti della Camorra questa non c'è ancora stata. E allora, come diceva Isaia Sales sul nostro giornale nei giorni scorsi, forse sarebbe l'ora per un certo tempo di cominciare ad occupare con maggiori forze di polizia e carabinieri proprio il territorio, perché il presidio del territorio con forze di polizia e carabinieri costante forse è l'unico metodo per affrontare questa emergenza. Allora, intanto grazie a quello che state facendo in questo periodo, perché per esempio tutta la storia della concentrazione di detenuti maggiorenni anche negli istituti, nella parte residuale degli istituti di correzione per minorenni nel nostro paese, io l'ho letta solo sul vostro giornale, per quello che avete scritto. Ieri era intervistato Cascini. Oscar, se posso dire una cosa, qua c'è proprio una coincidenza che per molti può essere incredibile, perché vive a Napoli non lo è, perché la fiction, la docufiction, la realtà poi praticamente sono la stessa cosa. Nel documentario di Robin Hood di Santoro, uno dei ragazzi che viene intervistato è proprio uno di quelli che, condannato a 16 anni per omicidio, era nel carcere di Airola in provincia di Benevento a capo della rivolta che è finita, insomma, su qualche giornale nei giorni scorsi. Grazie a Federico Monga. Allora, questa è l'opinione di chi fa il giornalista lì. Federico non è di Napoli, ma fa il suo mestiere a Napoli. Dice: al resto d'Italia ci prova a fare, non frega niente di quello che succede qua. Beh, ma ci ha segnalato un problema. C'è un problema di scarsa forza ancora dopo tanti decenni e di emergenza nell'affrontare e nel presidiare il territorio, nell'affrontare le forme nuove, come avete sentito, prive di equilibrio interno, armi indiscriminatamente nelle mani dei minorenni, eccetera, eccetera. C'è questo problema di uno Stato che ancora non ha capito di dover mettere le forze giuste. Lo chiediamo a Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto di Napoli. Secondo lei questa è una chiave, o l'altra chiave è quella che probabilmente sti ragazzini escono fuori anche dal fatto che lì lo Stato non c'è dal punto di vista sociale? Io non voglio dire, non mi piace chi dice sempre la colpa è dello Stato. Sto dicendo però che se minorenni in numero così elevato sono oggi la manodopera, ma anche a quanto pare i gradi intermedi e alti di queste nuove gang che sparano con i Kalashnikov, vuol dire che non c'è assoluto controllo, ma sociale, prima che militare e di presidi di polizia e carabinieri a Napoli, nell'Interla. Lei che dice, procuratore? Sì, guarda, innanzitutto buongiorno. Sono vere entrambe le cose. Insomma, i due fenomeni sono strettamente intrecciati, perché è sicuramente vero che queste gang occupano, per assurdo voglio dire, degli spazi che sono stati lasciati da quelli che sono dei successi dello Stato nell'eliminazione dei clan storici, insomma, che hanno governato su larghe parti del territorio di Napoli. Però è anche vero che la possibilità di occupazione del territorio è data dal fatto che una volta che questo territorio viene sgomberato dalle vecchie forze che lo occupano, poi resta deserto. Cioè, c'è una soluzione di continuità. Anche se a quel punto non spetta a voi occuparlo come magistrati, no? O mi sbaglio, può essere che mi sbaglio, mi corregga. No, guardi, ma questo è pacifico, insomma, voglio dire, e questa è una vecchia questione. Dico, è evidente che non già la magistratura è stata impropriamente caricata di molti compiti di supplenza. Appunto. Insomma, pensare di poterlo caricare anche di questo è francamente una cosa inverosimile. ed è però ai miei occhi veramente incomprensibile. Lei, per esempio, per quello a cui che siete chiamati a fare di fronte a questo fenomeno, all'interno del vostro mondo, cioè della magistratura, tanto nella componente istituzionale, sto parlando quindi di assegnazioni da parte del CSM rispetto alle carenze di organico, tanto nella vita associativa della magistratura, si verificano fenomeni paragonabili a quelli che ci sono sull'informazione, cioè totale disattenzione o comunque molto grave disattenzione rispetto a quella che a me sembra la gravità di un fenomeno quotidiano a Napoli, oppure nella magistratura non c'è e c'è abbastanza attenzione secondo lei? Guardi, ma in realtà il discorso è diverso, perché l'ordinamento della magistratura è fatto in maniera tale che non è prevista da parte di un centro come dire, un'attenzione per quelli che sono i problemi della periferia. Io posso dire che sicuramente ci sono, voglio dire, delle carenze di organico in questo momento a Napoli, sia all'ufficio GIP che in procura, ma non si tratta francamente di carenze di organico pari a quelle che si verificano per esempio in altre parti del territorio nazionale. C'è un problema probabilmente di riuscire a pensare di affrontare una situazione emergenziale in termini emergenziali. Cioè, insomma, io quello che dico, non è possibile che per fare in un contesto di questo genere, non è possibile che per gli ovvi impegni che caratterizzano pubblici ministeri e i giudici per le indagini preliminari si possano aspettare 6 mesi per avere un'ordinanza di custodia cautelare o 6 mesi per scrivere una richiesta di misura cautelare. I tempi devono essere abbreviati, e per essere abbreviati ovviamente c'è bisogno anche in maniera contingente di più magistrati. Insomma, questo è il discorso fondamentale. Cioè, noi pensiamo sempre ad affrontare queste situazioni come dire, riducendo quelli che sono gli strumenti, diciamo, dello Stato di diritto. Invece gli strumenti dello Stato di diritto sono una garanzia per tutti. La cosa è possibile coniugare entrambe le cose attraverso un impiego delle risorse umane che preveda delle concentrazioni di personale per tempi brevi per fronteggiare determinate emergenze. Insomma, questo è un po' il discorso, e questo ovviamente non avviene, insomma, è inutile negarcelo. Per un pubblico ministero comprendere dei ragazzini di età così bassa che fanno della professione di fede della violenza pura la scelta di vita rispetto, voglio dire, alla comprensione di un criminale classico affiliato a organizzazioni criminali di tipo camorristico, sacca corona unitica e mafiosa, beh, insomma, voglio dire, voi avete un bel po' di, tra virgolette, letteratura giudiziaria e atti processuali di colleghi eccetera eccetera da decenni a cui fare riferimento per le armi culturali interpretative, voglio dire, non per gli strumenti tecnici, ma per i ragazzini come fate? Guardi, ma lei coglie un punto veramente centrale, insomma, in questo momento. Io l'ho detto in più occasioni. Cioè, noi ci troviamo di fronte a un fenomeno che non è in precedenza stato analizzato e per il quale non abbiamo ancora, diciamo, chiavi per poterlo compiutamente analizzare. Guardi, il fenomeno è davvero preoccupante. Saltano, diciamo, tutte quelle valvole di chiusura che hanno garantito tutti i protagonisti, no, diciamo, delle attività di indagine in questi anni. Per esempio, faccio un esempio, in questi anni a Napoli, sia pur con una criminalità organizzata particolarmente efferata, il livello di sicurezza per gli operatori, polizia, carabinieri, magistrati, è sempre stato, come dire, abbastanza elevato. Elevato, sì. Oggi questa garanzia non esiste più, perché questi giovani criminali sono incapaci di fare una comparazione tra i costi e benefici di qualunque attività criminale. Esattamente. Allora, io ringrazio i suoi colleghi per quello che fate. Noi nel nostro piccolo, cari ascoltatori, io voglio solo segnalarvi che io sto criticando il sistema dell'informazione, ma sto criticando pensando di avere qualche titolo, in questo caso non come titolo personale, come, come organo di formazione Radio 24, perché chi segue, e io vi invito a farlo, sabato alle 21.30 su Radio 24, la bellissima trasmissione di Raffaella Calandra, Storiacce. Raffaella Calandra è una grandissima collega che si occupa di giudiziaria da anni. Ecco, se voi ascoltate Storiacce e Raffaella Calandra, avete trovato nel corso dell'estate tantissimi approfondimenti dedicati proprio al tema che noi non riusciamo a capire come sia possibile che l'informazione italiana trascuri. Cioè, voi sui giornali trovate l'aggiornamento, per esempio, delle vittime per uccisione e assassini a Chicago. Ho fatto conto ieri, c'erano 23 giornali italiani che nell'ultimo mese parlavano di questo, e va benissimo perché il numero è molto elevato, e attualmente Chicago è la grande area metropolitana negli Stati Uniti con la maggior perdita di controllo progressivo della criminalità organizzata. Cioè, c'è un numero di morti ammazzati che è pari a quello, superiore a quello di New York e Los Angeles, che non sono proprio posti dove non si spara e non si uccide. Però di quello che succede con questa leva di massa di criminalità minorile a Napoli, nell'intera Campania, non trovate nulla. E invece trovate, e questo è il nostro terzo ospite per capire come si spieghi questo fenomeno, trovate un mucchio di comunicazione per la serie Gomorra, e immagino che lo stesso avverrà, ma è già avvenuto nelle anticipazioni della presentazione a Venezia di Robin Hood di Santoro. Per capire questo terzo aspetto culturale e comunicativo è con noi uno scrittore e sceneggiatore di Napoli, è stato anche nella squadra di sceneggiatore del film Gomorra, che è a Venezia oltretutto, dove presenta un suo cortometraggio dal titolo Stanza 52, che è ambientato in una stanza di hotel a Napoli. Maurizio Braucci, grazie di essere con noi, buongiorno. Di aver accettato. Buongiorno. Dal suo punto di vista, per lei è una scelta professionale, no? È anche una scelta civile, avendo capito lo spirito con cui l'affronta. Ma com'è possibile che ci occupiamo così tanto di Gomorra, di Robin Hood, e ce ne fottiamo delle storie vere da cui nascono? Perché la realtà si vende molto, parliamo di mercato della cultura, e quindi questo è un prodotto in questo momento, tra l'altro, collaudato, perché è un genere, gangster movie, eccetera. Poi ricordiamo appunto il grande exploit del libro di Roberto Saviano, che tra l'altro è stato utilissimo per anche creare un immaginario più sensibile della collettività, e quindi anche un'attenzione all'azione giudiziaria che è stata notevole negli ultimi anni. A quella poi, appunto, come diceva anche uno degli intervistati prima, si ricollega il fatto che quel vuoto di potere dato dalla Grande Depressione poi ha creato questo fenomeno, che poi è diffusissimo nel mondo. Le baby gang nelle metropoli sono i giovani, sono sempre stati, certo, un grande però elemento. Altrove magari ce ne si occupa, qua invece parla di no. Ce ne si occupa, adesso è diventato molto un fenomeno che riguarda appunto la rappresentazione, quasi il costume, cioè si spende molto più tempo a dire le stese, come sparano, come si vestono, eccetera eccetera, a volte veramente con una specie di competizione con la realtà nel cercare di riprodurla. Io trovo anche nel cercare di riprodurlo c'è anche un compiacimento, però, cioè come se fossero, sì, codici d'onore, come se fossero codici identificativi. Io vorrei il presidente del consiglio che andasse a scampiare e dicesse: qui ci vogliono scuole, cioè o si fa così o altrimenti finiamo vittime del fatto che li invitiamo a credere nella pistola e nella K47. Io sarò diventato un vecchio padre un po' conservatore, ma le chiedo, può essere, mi dia del rincoglionito se sbaglio. No, lei ha ragione. Io penso che sia un po' abusato in questo. Tra l'altro, non spiegando, cioè, tutte queste cose poi non sono servite a cercare di capire i fenomeni, a fornire quella cosa che un intellettuale, un artista deve fare, no? Cercare di indagare degli immaginari e riportare alle persone delle domande, non dico delle risposte. In questo si è un po' abusato, le ripeto, perché è diventato un grande fenomeno commerciale. Questo si vende molto. Oggi, se scrivi di Napoli di una cosa positiva, non ha nessun interesse. Se gli dici adesso ti spiego come fanno quelli a comunicare tra di loro quando sono sotto, allora quello però si vende. Però il paradosso dell'impegno civile, che dal di dentro si riduce a pura cosa commerciale, non mi va bene, ve lo dico. Viva tutto quello che volete sulle testimonianze, ma non possiamo in questo fare oleografia delle gang giovanili. Allora, adesso giornale radio, poi ci sono le vostre telefonate su questo, e vedrete un paio di testimonianze della pubblica amministrazione un po' folle in cui viviamo nel nostro paese, dopo GR.